giro. E vabbè, e là con bene comune non ci penso a fare un altro. Se poi queste vasche così dietro massaggio consumano molto è perché cosa fanno? C'hanno l'accumulo, quindi l'aspirazione, e poi scaricano tutto quello che hanno accumulato nella vasca per fare praticamente il massaggio, perché ad aria no. È positivo, positivo. Oppure ne stavo dicendo che c'è quella che ha un sistema che ti ricicla l'acqua, no? Quella che tu ti lavi, la ricicla, la pulisce, c'è un filtro che, questo mattino c'è un filtro che te la pulisce e te la rimanda, capito? Mi sembra che c'è anche un appassamento. Quella costa, Claudia, perché però i consumi sono minimi, capito? Perché ti ricicla l'acqua stessa che tu ti lavi, capito? Te la ributta però pulita. Ecco, a questo tipo una pompa di elettrorilancio che con un filtro, interessante sta cosa, vedere. Una pompa di rilancio che praticamente rilancia l'acqua pulita una volta che esce da questo filtro. E nella vasca che questo filtro rimane in vasca oppure ha uno scarico, quindi c'ha due scarichi questa vasca. Devo però avrà gli scarichi, ne ha due, capito? Ne ha due perché ti butta via tutta l'acqua sporca e ti si trattiene l'acqua e la ricicla, capito? Poi tu una volta che tu finisci di farti la doccia, scarichi e se ne va via tutto, capito? Interessante, da no, io ne ho visto una in esposizione quando sono andato a Bologna, sono andato al SAI a Bologna per motivi di lavoro, che quando l'azienda ha acquistato il dissalatore ce n'erano esposti al SAI e quindi siamo andati in tre per vedere un po', insomma, per prendere più o meno un po' di documentazione, vedere come l'ha fatto, come l'ha fatto, su quale base poteva lavorare, quali pressioni eccetera. E ho visto questa vasca idromassaggio bellissima, era sul Celestino, molto chiaro, con una sagoma che sembrava, non l'avevo mai vista, fatta due anni rotonda, quadrata, varia una L, una cosa così, ma ci sono anche così, non è che sono tutte lineari, ci sono anche sagomate che fai così. Sì, c'è la conchiglia, ci sono quadrate, come le vuoi, no? Non c'è problema, se tu non dopo la devi mettere al suo tipo di vasca, capito? Ma sono bellissime veramente. Diciamo che si parla sempre di consumo di acqua. Secondo, se trovi la vasca che ha il motorino che ti ricicla l'acqua, che filtra l'acqua, ti rimanda sempre dell'acqua filtrata, esce pulita, e ovviamente l'acqua viene filtrata, ma c'è un filtro, ti filtra l'acqua, ti rimanda quella lì. No, ci sono tutte le stampe, la verità si dica. Tutti i prezzi e tutte le stampe. Non ce n'è di lineare o controlineare, capito? Come la vuoi, c'è. Sì, ma infatti, ma anche questa era molto bella, forse come hai detto tu, con conchiglia, con una sagoma particolare. Costava una barca di soldi, mi pare sui 2.800 euro, una cosa del genere. Cazzo, solo una vasca, ci vuole un capitale a fare una cosa del genere. Cazzetti, 2.800 euro solo una vasca. Poi gli altri sanitari devi adeguare la vasca, giustamente, quindi devono essere di marca buona, eccetera, e costa. No, io qua ce l'ho normale, nuova, il bagno è stato tutto ripristinato e fatto, però mi sarebbe piaciuto vedere questa vasca così, no, a me e mia figlia, però ha detto buona idea in busciacca perché io ne ho speso anche truppi, cazzo, mi sono prosciugato quest'anno, dall'inizio dell'anno io ho cominciato giù, l'ho pagato e basta, e boom. Nonostante c'era qualche risorsa che aveva lasciato mia suocera, praticamente poca roba delle masse, poca roba, già hai visto come ho fatto tutto, però una cosa bella l'ho vista anche a casa di un amico, su quale lavoro, ha comprato la casa nuova da poco, l'anno scorso mi pare, neanche un anno, a giugno l'anno scorso un anno, e quando ha fatto così perché ha comprato l'impresa l'ha proposto nei bagni del vasco idromassaggio, lui aveva fatto una piccola aggiunta, però così si può fare quando è in costruzione, ma certo quando c'hai già il bagno fatto devi smaltellare tutto e puli tutto nuovo, è un costo doppio, no? Sì, quello è vero, e io aveva, no, ma ci sono anche da spendere meno, se ne sono, non ti devi su ad affermare in un negozio, devi girare e guardare i prezzi, la qualità del prodotto e compagnia bella, ma allora, ci sono anche da spendere poco, capito? Se uno proprio non vuole la vasca, si prende la doccia, i massaggi, non è che cambi in moto, il sistema più o meno lì stai in piedi, invece in vasca devi stare tagliato, ecco, tutto lì. Però più o meno hanno sempre gli stessi sistemi, ecco, di pompaggio, di cose, capito? Ma è l'arrusso, l'arrusso. allora, ciao, le tanti di salutati, Fabio. Lui stava parlando più l'uccetto. Ciao, non già siamo qua, allora è ancora, fino alle 10:15. Siamo qua, poi a nanna perché domani la sveglia, se no mi suona troppo in fretta. Ci sentiamo dopo, buona passeggiata e buon tutto. Piruccetto, sento il moro. Saluta Luca, non sento per niente, va, ci sentiamo dopo, ciao a tu. Ciao, ciao Luca, a dopo, se coincide a dopo, non c'è stato problemi. Piruccetto il moro, ho detto con la dire che stava scaldando e stava girando le bistecche. Ah, Gabriel, minuti, saluta Lucariello da Tattari, che non ti sente per niente. Qua invece dalle alte montagne di sparviere le falchi ascoltano tutto. Ci sentiamo dopo, Lu, già siamo qua, va. Se non tardi già siamo qua, se no guardati io ho dormito, ma qui c'è via Drummond della Gadria. Cosa stai scaldando qui, Lu? Le bietole, cosa stai facendo? Uova cotte? Compare che l'aveva trapassata, invece fu lo prende per il viola. Piccola, dice che bazzicano molto i lui, i lui travestiti, dice che bazzicano molto e sono anche carini, non te ne accorgi, bisogna stare attenti dal movimento delle gambe, Pinù. Con quella che funziona, che te ne accorgi, se vedi che parte subito, l'anno è lui, mi Pinù. Con quella non si scherza, avanti a tu. E così, allora, ci sono anche delle persone in piano, parlano, ci sono però la maggior parte di stare attento anche lì, caspita, lì devi stare molto attento sia per le valigie sia per queste persone qua, capito? Poi del resto, tutto il mondo è paese, là. No, non penso ce ne siano problemi. L'importante è che uno si sappia comportare, poi va in capo al mondo, Pinocchio, non ci stanno problemi. Cari, fai, riprende, va. E te ne va fuori tu, la somma ti ha fatto ballare. Io, adesso c'è molto cuore a me, ma non c'è problema, possiamo aumentare. Ci portiamo da 30 a 50, no, non problema. Ho detto se ti ha fatto ballare la samba quella. Samba ti ha fatto ballare. La samba, te ne ha due che ti ha messo sotto e te ne ha la samba. Lasci andare subito. Ah, come piace a te, vamos alla playa. Quelle bevono, Pinocchio, quelle bevono sono delle spugne, sono maestro. Devi stare anche attento, quelle bevono sono delle spugne, poi io. Si deve essere molto querreme, perché già da stamattina c'è molto querreme. Ciao Pinu, ciao, quindi ti apposto la roba, già siamo qua, dai, non c'è problema. Io va bene un po' di querreme perché già arriviamo forti. No, lui qua lo passa il correme tranquillamente. Evidentemente lì ce n'è di più e quindi ogni tanto manca qualche parola, ma non c'è problema, possiamo dare un pochino più di gas. Va bene, a dopo Pinu, dai, chiama, già siamo qua, vai Antu. Sì, Pinu c'è a dopo, dai, fai quello il dovere. Quando vuoi, già siamo qua. Ciao Pinu. Come si chiama quello di Pattara? Tiseria, far west, com'era? Spedi Gonzales. Sì, che fa far west? Ma Spedi Gonzales. No, ma c'era, ti ripeto, c'era anche il demonio. Il gioco c'era anche lui, capito? Stavo facendo delle prove perché mi hanno detto stamattina, demonio, che ti ha sentito a te, ci arrivava una bomba, a me lo stesso. E loro non arrivavano perché stavano provando solo tipo il baracchino e usciva questo, diciamo, questo Spidi Gonzale e stavano facendo delle prove, più o meno. Gli ha detto anche di nuovo di cosa, gli ha detto Pinocchio, ha detto guarda che buttaci via tutto e quel baracchino sta facendo male. E gli abbiamo sentito ieri. No, pensavo che era di nuovo lui perché sentivo parlare sotto, invece non è lui. E già, certo da lì che sta lontano, non è, e per queste zone sono molto alte, quindi riesci un po' a evadere dai disturbi, soprattutto dai disturbi dei palazzi, delle cose, che perlomeno io non c'ho niente davanti. Sono a 40 metri, quindi l'antenna è proprio libera a tutte le ruote. Ma lì Pattara rimane leggermente spostato, quindi c'ha Oschi e Fieri, tutti lì davanti. Invece Pinuccio c'è la zona molto alta, ci sono stato da lui, c'è la zona molto alta, molto, molto libera, perché non abbiamo piazzato l'antenna. Mi sono accorto che praticamente passava dritto il paese, non le dava fastidio a me. Però c'era una buona zona, passa la grande, come la zona nostra, vento libero, non abbiamo palazzi che ci impediscono di usufruire, di rispettare le onde, e vanno, camminano in una bellezza. E noi siamo contenti, per quello lì già siamo contenti, la verità si dica. Ripeto, io ho delle zone negative, tipo Castelsardo, Sesto Pitre, Quinto Pitre, quelle zone lì è un po' negativa la mia modulazione. Poi del resto sono tutto aperto, Arghero, Stintino, dappertutto sono tutto aperto. Sì, perché tu sei un pochino più sotto e poi c'è quei palazzi davanti. Ma io non ho problemi, io da qua, dall'altro lato via si vede Marrizza, si vede tutta la costa, non c'ho problemi. Arrivo molto bene anche giù. Parlo in diretta con Santa Teresa e NVHF, figurati. Non ho grossi problemi, è una frequenza un po' particolare. In U no, in UHF manco si t'ammazzi, ma in V sì. In V sì. Qua chiaramente è una banda cittadina, quindi un po' di difficoltà ce l'abbiamo sempre, un po' tutti in generale, chi ha zona buona, chi ha zona mediocre, insomma. Perché QRM, quello è il problema. Invece quando si parla così a lunga distanza bisogna passare in FM, è più pulita la modulazione, non c'è QRM, non c'è niente. Ma in AM è una cosa allucinante, poi soprattutto in queste giornate così ventilate, o che ha fatto molta foschia, perché stamattina non sono uscito io, c'è un'umidità allucinante. Poi durante la giornata chiaramente inizia a scoprirsi queste scariche elettrostatiche che poi vanno trasformate in QRM vero e proprio. Anzi, qua adesso si sta bene. I primi periodi che sono arrivato io qui su c'era ancora la vecchia centrale dell'Enel che attraversava la strada, c'era lì c'era alta tensione che attraversava la strada da via Milano all'interno di via Lamalfa. Era una cosa allucinante, d'inverno non ci potevi modulare perché sentiva proprio il ronzio della 15.000. Era anche pericolosa perché molte volte i fulmini attiravano parecchi fulmini. Poi è stato fatto un reclamo, Dio. È stato fatto un nuovo piano urbanistico dove sono stati tolti i tralicci e sono state fatte linee interne, fatte come si deve. Ma prima, mamma mia, gara. Chi è? Ah, ciao Demonio, ben sentito, in compagnia di Claudio Spaviero, dai. Avanti Claudio Spaviero per Demonio. Guarda, di positivo, ciao Demonio, buonasera, ben ascoltato, ascolti qua lo Spaviero Renale dalla altura di Carbonazzi. Medrugare, ci sentiamo. Arrivi anche tu molto bene. Vai, Antonio. Positivo. Ne rientro, sì, di molto. Positivo. E io un po' lo sento maluccio, la verità sì, troppo QRM oggi, la verità sì, che cosa dire, molto QRM. A capo, ci sentivi da quando eri a Tula, e noi siamo contenti, dai. Positivo, dai, lo so, si è troppo casino, è vero. Capo. Ok, io prima che non ci sentiamo ti saluto, dai, se coincide da domani, ti rilascio a Claudio, avanti Claudio. Io, Rimu, non c'è problema, io ti ho sentito, hai fatto un passaggio un po' latino, e quasi 9, dove si è arrivato adesso? Allora, vai così lontano, se sei lì in mezzo, guarda, quella zona lì sei, Ozieri. E allora già sta arrivando bene, non c'è problema. Lo senti bene tu adesso, che è nuovo qua? Sì, adesso ho iniziato a sentirlo bene, sì. Ma c'era quel passaggio che l'ho sentito più, adesso lo sento abbastanza bene, sì, è vero. Sì, basso, anche non lo senti bene Antonio. E io sono dall'altra parte, sono proprio davanti a te, lui invece. chi è il sei ultimo? Cioè, meno 100. Stava preparando le valigie, se non ti hanno a New York. Hai sentito a noi? Ah, arriviamo anche a Pattaya, tanto. Allora le torri funzionano, funzionano. Cosa stavo dicendo? Ma tu ci dico che paghe. Ah, non c'è problema, glielo so, verso le piscine, arrivi fortissimo da lì. Ma non è che ascolto bene, anche Antonio, non c'è problema, dai. Fai pure un'ombra, già siamo qua, di mo. Faccio passaggio dentro il paese, sto prendendo il turbante, poi mi... Piscina, dai. Arpa di roccia, non va bene tu. Fa di mo. Già siamo qua, non ci stanno problemi, di mo. Tutto forte e bello, di lusso, va bene così, di mo. Avanti, cadì. Si inceppa il microfono e si inceppa il diavolo della portata che c'è la marina. No, il mio ha fatto l'avanti, quindi metto l'occhio e non si inceppa quello perché a scorrere, capito? E quindi devi stare a tirare l'indovino perché si sente tom tom tom, cazzo di tom, non scancia. Ma che rottura di palle, ma perché quando uso la destra mi si inciampano, allora devo usare la sinistra, perché lo tengo sulla sinistra e non si inciampa, capito? E vabbè, il microfono è già uscito. Oh, mio amore, mio si conosceva il sindaco. Sì, già lo conosci. Essere gloria di alcuna c'è la sindaco. Così le facciamo, le mandiamo i saluti che. Sì, l'avevo fatto altro. E manto, ma nel giardino è tutto pieno di la mangagliomi. Ah, io sono poco ma sicuro. Dappertutto arriviamo, Rodi, dappertutto, non ce n'è per nessuno. Ho modulato per 23 anni da qua, non ci sono avversari, è una zona troppo particolare. E tieni conto, io ho fatto le cose in piccolo perché non è che abbia più quella grande passione. Ho le antenne VU sistemata, sì, vabbè, quella è un'antenna particolare, quindi non ci sono problemi. Quella piccola per quella radio che hai visto grande, poi questa, ma sono tutti a 2 metri di palo e non ho fatto nessuna cosa, sono tutte senza attiranti, guarda, un po' di buoni, però le ho messe talmente basse che non mi interessa niente. Volendo la mantova soprattutto posso tirarla su a 3-4 metri, quindi 4-2 sono sì, ma a far cosa, fa vedere quelli bizzoni. C'è già 40 metri, va bene così. Io sto per fare 2 chiacchiere, quindi. Ma è proprio la zona che mi ci dia. Non ho mai avuto problemi con nessuno. Domina tutta la Sardegna. Sardegna Island. Dominante dalle 2 torri gemelle. Le acque degli Sparvieri. Positivo. No, volevo fare una provetta in FM, di avere come ti arrivo, se è chiara la radio, se è pulita. Detto però, in FM io devo accendere la luce, perché la mia tastiera di questa radio non è illuminata. Se la vuoi fare la facciamo, fammi accendere la luce, va? Fai uno, ma sei pronto. Come qua, signore! Papà, di Bonio, che caspita, va, arriva la grande qua, Toglimi una curiosità, ce l'hai l'FM di mo? Aspetta 2 secondi che facciamo una provetta in FM. 2 secondi, me lo dice Claudio e via. Sì, Claudio. Vecchio me. Proviamo, c'è anche il demonio. Sì, vai. In FM. sta meglio in AM che in FM. In FM rimane, sì, è forte, però molto molto potente, no? Molte volte le parole non è che si scandiscano bene. Sì, c'è una cosa, anche voi in fase di ricezione mia non vi sentivo tanto chiari, ce n'era uno che lo sentivo, forse la partita lo sentivo molto più bene dell'altro, ma forse che arrivava troppo forte e scandiamo le parole. Sì. Catena FM, vabbè, posso regolare, però Catena FM è questa radio da quasi 200 watt, invece così sono 30 watt, 40 watt modulati, va bene, invece in FM va in automatico e se ne va a 200 watt, quindi essendo così vicini adesso si approva che è troppo forte la modulazione. Infatti, ragazzi, ti sento chiaro, mi stai parlando proprio, senti cosa dicevo sempre qua. Grazie. La modulazione è molto importante anche per farsi capire a volte. Quindi, e anche Falchetto già non scherza, bella modulazione, bella voce. Pimpante, amplificata, cazzo, ti ascolto bene l'FM, Mianto. Ma sempre con quella radiolite esce. Sempre con quella, Sladi, sempre con quella. Signori, adesso qua spengo la barra pesante, sai, io sono fiorino, e accendo l'altro, vai. Positivo. Va bene, Dimo, siamo qua, chiama pure, non c'è problema. Ti ascolto molto bene in FM, caspita, rulla bene con la radio. Perfetta, Claudio. Concentratissima, sono andato a sintonia continua, perché qua sono memorizzato, ho le 100 memorie memorizzate. Dal canale 1 al canale 80, tutte memorizzate, c'è 100 memorie sta radio. Mentre per spostarmi sugli altri in FM devo uscire dalle memorie, sono andato col WFO a sintonia continua, ma sì, perfetto, 27.075.00, perfetto. Cappa noce, cappa te lo rilasca, allora è buona radiolina, dai. Questa è buona, rulla molto bene, veramente è una bella radio, bella compatta. E a volte quando fai una, ma quella l'hai comprata nuova tu? No, questa l'ho presa seconda mano. E vedi, ti hanno dato una buona radio, va bene. A volte, sai, seconda mano bisogna stare sempre attenti. Oh, io sono molto pignolo e quando do queste qua soprattutto devi stare molto attento, perché ci può essere magari qualche decimale un po' fuori onda, e allora devi fare subito la centratura, perché sennò poi ti sfasa tutto, essendo un tre conversioni ti sfasa tutto, soprattutto la banda laterale, poi tocca stare anziché decimale zero, devi fare punto 10, punto 20, è una rottura di balle. No, questo è perfetto, è allineatissimo. L'altro invece è il 140, che ne ho due di quelli doppi, che uno devo farlo, mi metto sempre a dirti a chi, e devo mandarlo a lineare perché c'è il decimale in banda laterale che è spostato di 20 Hz e quindi devo farlo centrare, farlo fare la centratura. Solo che Massimiliano è sempre impegnato a Olbia, appena si libera glielo porto, glielo faccio fare. Cos'è di mondo? E però vabbè, segnale 9, la radio 5 perfetta, non è amplificata rispetto a quella là, però è abbastanza comprensibile. Tu me lo senti a demonio quanto? Sì, perfetto, sì, appena bassa, ma abbastanza comprensibile, sì. Non è amplificata, però è una buona radio, sì. No, andiamo bene, demonio. Stazionali alte. certo limite tollerabile da 1 a 5 può anche andare bene, ma superare l'1 a 5 se hai già 2 sei troppo a rischio. Speriamo che non ci siano problemi, piazza non ci vuole bene il casinale. Speriamo che ci siano problemi. Ciao, De Rogero, andrà bene. Ok, Cavalli. Se io, se vuoi chiudere, io chiudo lo stesso, mi riposo e domani si alza presto per travagliare, cava cava. Ma insomma che leggermente un po' stanco oggi. Sì, dove non dobbiamo stare sino a... Chiacchierata ce l'abbiamo fatta, abbiamo risposto a chi ha chiamato. Due fesserie ce le abbiamo lette, va bene così, ci aggiorniamo domani. Ci vediamo al solito posto domani mattina, dai, ci prendiamo un caffè, una sigaretta e poi ce ne andiamo a travagliare. Ciao Antonio, salutoni, grazie della compagnia, come sempre saluto tutti quelli che sono in ascolto. E ci sentiamo domani, stessa ora, stesso canale, cambio. È positivo, dai, salutoni anche a te, dai, fai un buon riposo, ma tutto. A domani con la carica di cappina. Saluto anche agli ascoltoni, e a tutta la rotella. Ok, guardi, tutta domani, dai. Ciao ciao. Ciao, buonanotte, ciao ciao.